Porto pesi sul collo, tra un po' mi esce una gobba. Sai che non la passo, Cristiano Ronaldo. I miei fra stanno fuori a spalare merda al dettaglio. Sto contando non distrarmi, Aguile, Giorgio Armani. Un Sandec tra le mani, dal gang non siamo umani. Tesoro siamo alieni, spenderli e riprenderli e non vado alla Bocconi. Louis Polo e Fendi, fumo uscendo e Bocconi. Se vuoi beccarmi col Tony, non chiedermi è tutto vero. Tanto se non ti rispondo su così senza erogate il mondo. In tasca abbiamo il mondo e facciamo a modo nostro. Dark Gang 777, siamo un mostro, un colosso. Porto pesi sul collo, tra un po' mi esce una gobba. Sai che non la passo, Cristiano Ronaldo. I miei fra stanno fuori a sparare merda al dettaglio. Parli di me ma io sono fuori a farli. Sai che non la passo. Parli di me ma io sono fuori a farli. Scarpa bianca non la sporco, margela Balenciaga. Porto chili sul collo, sta invidiando la mia collana. Vestito fresco, senti freddo, troia stammi lontana. Al collo ho 4 appartamenti e 5 ergastoli in tasca. Porto chili sopra il petto come fossi uno schiavo. Compro firma alla mia donna, giuro amore che ti amo. Ti pago una puttana 2000 e poi la mando a casa. Soltanto con le mie collane posso sfamare l'Africa. Siamo dolci caramelle, droga per queste droghe. Siamo droga, chiudo pacchi, apro buste, chiudo pacchi. E dopo spendo i miei soldi, soldi. Firmo addosso anche quando piove. Fendi, culo sopra il Range Rover. Range Rover. Lei mi dice non fermarti, sopra pendenti e qua marina smeraldi. Porto pesi sul collo, tra un po' mi esce una gobba. Sai che non la passo, Cristiano Ronaldo. I miei fra stanno fuori a sparare merda al dettaglio. Parli di me ma io sono fuori a farli. Sai che non la passo. Parli di me ma io sono fuori a farli.